vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di sedere. Episodio numero, mamma mia, che ho detto? Episodio numero 19 di Ratto di Campagna, Topolino di Città, il programma di Radio Big World che esplora il modo di essere campagnoli e quello di essere cittadini, ossia l'essere vestiti con cravatta e bombetta piuttosto che andare in giro con una camicia di flanella e i calzoni di fustagno, oppure andare alla borsa valori e non all'orto, firmare pratiche, strisciare beige e non sparare il letame. Oh, diciamola tutta, qui c'è puzza di mucca, però lì in città vatti a respirare lo smog. E proprio perché io sono un campagnolo, cioè vado regolarmente vestito con camicia di flanella, calzoni di fustagno, vado all'orto a spalare il letame, non sono in grado di dirvi come fa quello vestito con la cravatta e la bombetta che va alla borsa valori a strisciare il beige, come viva o come pensi. Pertanto noi di Radio Big World ci rivolgiamo alla nostra guida fiorentinissima, una specie di Lonely Planet Firenze, che è colei che, mentre noi davamo ancora la caccia all'untore, lei vaccinava in massa il terzo mondo con risultati discutibili. Laura! Ciao! Ciao a tutti! Laura, dicevamo delle vaccinazioni del terzo mondo, degli untori, degli ospedali, dei dottori che persino Molière prendeva in giro, e era il 1600, figuriamoci oggi con tutte queste storie, il marketing, gli informatori scientifici, il Viagra. Però oggi parleremo di dottori a Firenze, parleremo di ospedali a Firenze in città, perché le dimensioni chiaramente cambiano. E le dimensioni dell'abitato e quindi del numero di persone che vivono in una certa area fa tantissimo e cambia tantissimo il modo in cui circolano le informazioni. Insomma, tutto sto pippone per dire che in provincia siamo paesi piccoli, quindi i dottori che abbiamo e che operano come medici di famiglia qui sul territorio più o meno si conoscono tutti, e quindi si scelgono in base alle conoscenze, chi ha conoscenza personale, chi gliel'ha detto il dottore che era andato in pensione, chi gliel'ha detto un'amica che si trovava bene o chi conosce il tizio perché c'è andato a scuola. Ma in città ci saranno decine di centinaia di migliaia di dottori tutti in fila per prendersi un paziente, o se no non campano. Come fate voi in città a scegliere il dottore di famiglia? La vicinanza anche qui conta, ma forse conta più che da voi, perché noi dobbiamo attraversare una città piena di traffico, e allora è ancora più importante che il dottore sia vicino. Cioè, ti senti male, ci devi arrivare strisciando, no? Non puoi non puoi fare lo slalom fra le macchine, quindi deve essere vicino. Poi spesso quello che hanno i genitori non è molto importante, almeno per me, il medico di base, perché alla fine che fa il medico di base? Ti manda dallo specialista, quindi l'importante è che ti ascolti, che sia abbastanza simpatico, simpatica, gentile, e che sia vicino, appunto. Oggigiorno effettivamente alcuni medici di famiglia sono diventati un po' troppo marketing, quindi prescrivono visite dagli specialisti o medicine di cui si dice che abbiano fantomatici guadagni, quantomeno una bella vacanza gratis. Ascolta, forse una differenza fra il medico di base della città di campagna, dimmi se sbaglio, è che noi prendiamo l'appuntamento e alle 4 tocca a noi, poi se ritarda possiamo entrare alle 4 e un quarto, 4 e mezzo massimo. Ma io ho sentito dire di persone che vivono in paese, dice: vado dal medico e quando tocca a me entro. Cioè, a costo di aspettare un pomeriggio. Ma è vero che in campagna, in provincia, non date appuntamenti a orario, ma uno va lì e aspetta? sono state adottate da alcuni dottori molto avanzati delle soluzioni tipo lascia 20 numerini su un tavolino, chi primo arriva e se lo prende, gli altri non lo fanno, insomma gli altri non hanno la visita. Naturalmente i bigliettini li mette prima, cioè la mattina, se lui riceve il pomeriggio, e ci vanno e ci si fiondano i pensionati, per cui è anche difficile poi avere... È come allora andare a fare analisi del sangue, cioè ci sono i vecchietti agguerriti che sono lì dalle 5 di mattina che non li schiodi, non ti fanno passare neppure se hai la priorità. Quando io ero incinta, per esempio, io andavo, no? Le donne incinte devono passare, però niente, loro quando la pancia non si vedevano non ci credevano nemmeno fosse incinta, se no mi guardavano storto, ma signora, ma perché la deve passare? Cioè alla fine il medico è... andare dal medico è quasi una corsa a chi arriva prima, non sa perché. È il classico, quello che arriva nella sala d'aspetto e chiede chi è l'ultimo. Chi è l'ultimo, chi è l'ultimo, esatto. E una cosa bizzarra che mi è capitato più di una volta, almeno dal mio dottore, ma ho un dottore che è anche lui un po' bizzarro, se no non lo avrei scelto, è che quando andavo in sala d'aspetto e chiedevo chi è l'ultimo, nessuno rispondeva, ma più di una volta, tant'è che mi ha toccato dire, ma come non c'è ultimo? Eri te l'ultimo, ti aspettava dentro il tuo dottore. Forse era ovvio, dice l'ultimo sei te, sei arrivato ora. D'accordo, e visto che i medici di base ci mandano dagli specialisti, dottori, dottoroni, professoroni, tutti con mille titoli, e questi dottori, professoroni, dottoroni e intelligentoni ovviamente ricevono in città, quindi in questi palazzi sui viali con dentro queste infermiere segretarie, insomma una cosa molto ufficiale, perché una visita come minimo costa un centone. Poi, minimo. Per carità, sono bravissimi e meritano il denaro che chiedono, ci mancherebbe, la competenza, l'abilità e la scienza per certi versi, scienza in quanto scibile, un pochino, e che cavolo, andrà premiata. Però quello che per noi provinciali significa lo specialista, significa il viaggio della speranza, quindi tutti rivestiti con la roba della domenica, doccia, gel, macchina, e poi arrivare a Firenze, trova il parcheggio, persi in questa selva, poi l'emozione, il dottore non mi riceverà perché ho le scarpe sporche. Voi che questi dottori, professoroni, ce l'avete sotto casa, anzi, magari ce l'avete vicini di casa. Come lo vivete l'averli lì? A parte che ormai dopo tutte queste puntate, anche se te vieni da uno specialista a Firenze, dovresti essere in grado di orientarti fra le vie, i numeri civici, il traffico, i mezzi di trasporto, eccetera, se no, insomma, cosa abbiamo parlato a fare? D'accordo, d'accordo, fin lì ci arrivo. Poi, ecco, come vieni vestito, qui non c'è la selezione del buttafuori, tanto insomma, li metti sull'unghia al centone, che è poco, perché generalmente anche 150 o anche 200. Salute! E quello sì, e quello si fa una bella visita. Noi abbiamo un rapporto sì molto più semplice, perché ci mettiamo magari 10 minuti ad arrivare. Io personalmente, che te l'ho già detto, odio il traffico, me lo scelgo anche in base alla vicinanza a casa, insomma quello più comodo da raggiungere è quello che tanto sono tutti bravi dai, alla fine questi professoroni. Auguriamocelo per noi, visto che gli affidiamo, sì, esatto, la nostra salute. Infatti E dottori e dottoroni si ritrovano tutti in un posto unico, che probabilmente non è il fisco, e cioè l'ospedale. L'ospedale che è qualcosa di magico, già qualcuno quando lo dice l'ospedale dà un senso così quasi religioso, e qualcuno dice infatti che i nostri medici sono un po' i preti di oggi in questo mondo scientista e secolare. Fatto sta, a Firenze di ospedali c'era più di uno, mi viene in mente Ponte Annicchia, mi viene in mente Torregalli, mi viene in mente l'ospedalissimo Careggi, però probabilmente ce ne sono anche altri. Ora c'è Santa Maria Nuova che è in centro, Ponte Annicchia è comune di Bagnarripoli, quindi se tu vuoi far nascere tuo figlio a Ponte Annicchia, perché te ne hanno parlato bene, fanno parti naturali, ci sono brave ostetriche, ci pensi due volte, perché sulla carta d'identità di tuo figlio non verrà scritto nato a Firenze, bensì nato a Bagnarripoli. Insomma, questo potrebbe essere una criticità nel suo futuro. Non sia mai comune di Firenze tutta la vita! Quindi sono questi 3/4, dai, più famosi. Anzi, i primi due sono Viscareggi e Torregalli, che si chiama San Giovanni di Dio, però non so perché lo chiamano tutti Torregalli. Infatti la classica domanda quando dici io sono all'ospedale, ah, Careggi o Torregalli? Ecco, questa è la classica domanda, come per dire, non lo so, i fuochi di San Giovanni erano belli o erano meglio l'anno scorso? Ecco, dove va all'ospedale, a Careggi o a Torregalli? Io preferisco Torregalli perché Careggi è lontano e c'è traffico, però ci hanno fatto la tranvia, quando sarà in funzione la tranvia tutti andremo a Careggi, belli belli, senza stressarci nel traffico, insomma. Se quello che dice Nardella è vero. Ringraziamo i nostri sindaci visionari che ci hanno dotato del tram che prima c'era, poi lo tolsero e ora costa un botto rimettercelo. Vabbè, i paragoni non reggono, ma si fa per dire, una battuta, perché una battuta serve quando siamo di fronte a ospedali così grandi. Sì, io preferisco Torregalli anche perché mi perdo di meno, perché Careggi è veramente una città. E allora è proprio difficile, poi per me che non ho senso di orientamento, è difficile orientarsi dentro Careggi. Però è interessante, sembra quasi di essere un microcosmo a sé, un piccolo villaggio. Poi vedi per i vialetti, i giardinetti, persone in camice che camminano, è interessante, un bel ambiente, dai. Ma col fatto di vivere a Firenze, quindi di avere a che fare con l'ospedale anche solo perché qualcuno è andato in maternità o un amico ha una gamba rotta o c'ha febbre di natura ignota, questi ospedali in qualche modo li frequenterete un po' più di noi. L'ospedale sì. Nostro è più o meno grande come un padiglione di Careggi e per noi quell'ospedale è grandissimo, figuriamoci a Firenze. Voi come fate a orientarvi? Dice, guarda, c'è Mario che c'ha il piede rotto, come fate ad arrivare? Male, male, ti deve far dare esattamente il numero del padiglione, il piano, la stanza. Devi partire un'ora prima, poi devi sperare di trovarlo, di chiedere informazioni a qualcuno che te le dia e poi insomma quando arrivi poi è già finita l'ora del passo e il tuo amico con la gamba rotta già dorme, quindi niente, lo saluti nel sonno. Quindi questo succede regolarmente, da noi succede un po' di meno. Ora gli Avanzi di Balera, che sono un gruppo comico, un duo comico di Arezzo e che fanno battute simpatiche, ma non so se farebbero ridere a Campi Bisenzio o a Prato, fatto sta che loro facevano la gag dell'essersi persi dentro l'ospedale e il San Donato Arezzo sarà un quinto di quello che è Careggi, sicché figuriamoci. Fatto sta che tanta gente, tanti padiglioni, tante specializzazioni che qui non ci sono e ovviamente tante persone che hanno necessità dell'ospedale, hanno necessità dei dottori per le loro mille ragioni, mille milioni di ragioni, e tutte queste persone alla fine confluiscono in maggioranza al pronto soccorso. Ora, da noi al pronto soccorso, che servirà, non lo so, 50.000 persone, beh, c'è una coda lunghissima. Pensa che una domenica ci fu allo stadio uno scontro con la polizia e i tifosi della squadra avversaria che ne avevano buscate dai poliziotti, dai carabinieri, erano al pronto soccorso, quindi li portarono più o meno alle 3 del pomeriggio, ancora la sera alle 9 erano lì in coda. Figuriamoci a Firenze, ci saranno decine, centinaia di casi, l'ambulanza, le misericordie, l'elicottero. Quanto durano le code a Firenze? In realtà non lo so se sono di più, perché essendo più ospedali... Sì, ci sono anche più persone, ma ci sono anche più ospedali, quindi non saprei. Sono comunque attese snervanti e insomma l'ultima cosa che uno vuole fare quando sta male è andare al pronto soccorso. Cioè, ma che fa? Vado al pronto soccorso, ci schiaccio una nottata, no? Però, per esempio, io ci sono stata a quello di Santa Maria Nuova perché vi un incidente in centro, allora mi portarono lì in centro e effettivamente quello è meno trafficato, tra virgolette, meno affollato. Ah, il mio babbo che ci andò diverse volte di sua sponte al pronto soccorso sceglieva proprio quello perché dice no, mi vedono subito, non c'è tanta... Ora ha dato una dritta un po' a tutti, vale, se volete andare al pronto soccorso e non volete perdere troppo tempo, ovviamente se avete qualche cosa insomma di non grave vi potete recare con le vostre gambe, andate a Santa Maria Nuova e forse fa più veloce. Careggi e Torregalli, insomma, sono più grandi, di conseguenza c'è più gente. Però ti deve andare bene che lo specialista di cui tu hai bisogno sia lì, cioè te vai magari in quello, nell'ospedale più piccolo, e è un problema anche dei paesi, perché io posso portare un esempio di un pronto soccorso in provincia di Siena che non ha l'oculista, allora se vai lì e c'è un problema a un occhio, mandala a Siena, per dire. Quindi è inutile fare poca coda magari in un ospedale che è piccolo, però poi dopo ti mandano in quello grande. Allora, a Santa Maria Nuova io ho provato tutti i dottori che mi servivano, è andata bene, però quante volte senti dire l'hanno portato a Careggi, ecco, quindi alla fine insomma gira che ti rigira, se finisci a Careggi allora devi portarti la bussola. Tutte le strade portano a Careggi, ci porta pure la tranvia, pensate. pensate, che poi ecco un'altra polemica sulla tranvia, tanto per ritornare un attimo sull'argomento che insomma è abbastanza caldo ancora. La linea 1, che è già stata fatta da anni, passa vicino a Torregalli, ma non passa da Torregalli. Quindi tutti hanno detto, ma perché? È passata di lì, potevano fare una fermata davanti a Torregalli. Allora forse è colpa di queste polemiche se hanno fatto la tranvia che va a Careggi. Così, per compensare la mancata fermata davanti a un ospedale, la fanno davanti a un altro. Lotte di potere tra professori, si saranno scoltellati, non lo so dove, si al circolo dei medici di Firenze, e alla fine uno da una parte, uno dall'altra, e muovendo le amicizie, ragazzi, a un dottore, a un professore difficilmente si dice di no, soprattutto se è un dottore e professore di medicina, pertanto ci sta che sia stata una delle tante baruffe che segnano la vita fiorentina da tempi immemorabili. Ma poi dottori, insomma, soprattutto in paese, via, quando uno parla del dottore come un po', insomma, un'istituzione, dai, del paese. Cioè essere, non so, il figlio o la moglie del dottore fa figo, da voi. Sono personaggi autoritari, no? Autorevoli, senz'altro, più che autoritari. Ma è tutte e due le cose, direi. E io che sono nipote di una levatrice, cioè di una midwife, per parlare in creolo, di una signora che faceva nascere i bambini, la maternità in qualche modo è un tema che mi coglie da vicino, non perché ho La maternità a Firenze. La maternità a Firenze ha un'eccellenza, che è la Margherita, che è un reparto di Careggi, dove tu vai a partorire consapevole che non ti aiuterà nessun medico e nessuna medicina, quindi parto naturale al 100%. Il che può voler dire nella vasca, attaccata ad una liana, con una palla sotto la pancia, però ecco, se c'è qualche cosa, se hai bisogno, t'attacchi. Quindi soffri all'infinito. Quindi c'è, soprattutto qualche anno fa, fa figo dire, vado a partorire alla Margherita, no? Un po' da figli dei fiori, però dice, brava, parto natura. Che poi con Prodi lì, che fa da ginecologo, mamma mia! Però c'è una selezione attentissima, perché te devi avere tutti i parametri perfetti. Se te hai un valore dell'analisi del sangue un po' sballato, no, te alla Margherita non ci vieni. Quindi insomma sono un po' razzisti alla Margherita. Però che succede? Quelli che vogliono andare alla Margherita perché vogliono evitare le sale affollate di Careggi, no? Perché alla Margherita tu hai la tua stanza personale con cromoterapia e la doccia di varie temperature. Solo che succede? A volte il parto non va come dovrebbe. E allora la figlia dei fiori, che è lì a partorire dalla Margherita, se ha un problema che può essere risolto semplicemente soffrendo, viene lasciata lì a soffrire. Se però ha un problema che necessita dell'intervento medico, viene portata subito a Careggi, e quindi ritorna come tutte le donne comuni che partoriscono in una maternità normale, e quindi viene meno così l'essenza della Margherita. Ora vabbè, ho un po' esasperato, è una cosa anche molto carina, un'eccellenza, una bella realtà. Tu però non vuoi fare il parto naturale, cioè lo puoi fare anche in altri ospedali, poi devi vedere se vuoi che tuo figlio nasca nel comune di Firenze, a Ponte Annecchere non ci vai, allora ti rimane, non sia mai. Ti rimane Careggi e Torregalli, solita domanda, dove vai, a Careggi o a Torregalli? E sono tutte e due belle realtà, io ho un'esperienza mia positiva e ho tutte esperienze positive di amiche. Quindi alla Margherita, in buona sostanza, le partorienti, finito il parto, non è che la prima cosa che fanno è mangiare il salame o verdura cruda perché gli è stata proibita durante la maternità, ma è direttamente fumarsi un cannone. Mi piace questa Margherita, bello! Margherite maternità, bambini, e abbiamo lasciato fino ad ora fuori dai nostri discorsi un ospedale che è una super eccellenza in campo pediatrico, è l'ospedale Meyer, che è a Firenze e che è un'istituzione non solo a Firenze ma in tutta la Toscana. Basti pensare che la Fondazione Meyer raccoglie una quantità di denari incredibile, tanto che alle badanti che vanno ai patronati e che a loro del 5 per 1000 gliene frega zero, gli viene suggerito spesso e volentieri di dare i soldi al Meyer, sicché è un movimento di popolo. Laura, te che sei fiorentina, sei mamma e che il Meyer l'hai più o meno sotto casa, ora sei spostato, non so bene se ti è più vicino o più lontano. No, ma sei spostato prima. Di poco, lontano era e lontano è, vicino a Careggi, quindi se tu stai male, puoi stare male tuo figlio, a ruota, sei sempre in zona. Com'è? È bellissimo, è bellissimo, veramente una cosa di cui vado fiera da fiorentina, perché ci sono stata per mia figlia, per fortuna per un problema non grave, e è veramente bello, per i bambini è quasi un parco divertimenti, perché è allestito in modo tale da rendere l'attesa più piacevole, da rendere il ricovero più piacevole. Vedi passare questi medici con i camici colorati, qualche clown da corsia all'americana. È molto accogliente per i bambini. Quindi vai dentro, ci sono due sentimenti contrastanti, no? Perché vedi questo bellissimo ambiente, per una volta sei fiera di come vanno spesi i soldi pubblici, e dall'altra vedi i bambini che, insomma, poverini, hanno diverse cose da risolvere, qualcuno, insomma, fa un po' impressione vederlo, e quindi lì dentro ci sono, cioè, ti suscita tante emozioni il Meyer. Però quelle maggiori sono positive, perché vedi veramente tanto personale in giro, tanti sorrisi e tanta gente che lì viene aiutata, e per questo sono fiera che sia a Firenze. Una storia che è capitata a gente che conosco: loro avevano un bambino piccolo, il bambino spesso si ammalava di febbre e lo portavano al Meyer per accertamenti, e decise questa famiglia di fare una vacanza in Africa, tipo in Kenya, in un villaggio, e chiesero al dottore, dice, ma del Meyer, dice, dottore, ma secondo lei, ma se lo portiamo, che facciamo? Si va in un paese africano? E lui gli disse, guardi, signora, signori, l'unico problema è che sarete lontani dal Meyer. Vabbè, questi presero e andarono in vacanza, arrivano in Kenya, stanno per buttarsi in piscina, zac, il bambino si ammala, una febbre che non gli va più via, gli toccò prendere l'aereo e tornare a casa. Al Meyer. Probabilmente non partiranno e non andranno più in vacanza finché il bambino non avrà 16 anni e quindi al Meyer. Sì, ma è questo dottore gliel'ha gufata proprio, E i fiorentini, insomma, quello un po' alla Marsilio Ficino, gli avrà fatto qualche giochessa e quello gli ha preso la febbre di natura ignota. No, siamo fortunati ad avere ospedali buoni oltre al Meyer, insomma, vicino casa, perché per esempio io, quando ho avuto necessità di andare a trovare, insomma, persone care all'ospedale, ci andavo e poi tornavo a casa, poi ci ritornavo magari il pomeriggio, pensavo, certo, chi viene da lontano, chi viene da un paesino sperduto, si deve fare un viaggio, come fa? E insomma, un po' più problematica. Poi uno spera di non avere mai bisogno, però ahimè, bisogno ce n'è, e quindi più vicini sono questi posti e meglio è. Laura, qui da noi che siamo in provincia, certe, poi dipende dalla provincia, ma nella nostra in particolare, insomma, diciamo che i numeri sono piccoli, pertanto certi incontri, in particolare all'ospedale, magari sono più difficili da fare. Ma a Firenze, che è vicina a Prato, che è una città enorme, che praticamente a Sesto Fiorentino battono bandiera del Guangdong, tant'è che quando il sindaco tentò di far rispettare la legge, 300 e rotti, migliaia di cinesi in piazza cantando l'inno e con la bandiera rossa, sicché figurati te, insomma, Laura, tutto sto discorso, noi siamo amici dei cinesi, per carità, ma hai mai visto un cinese all'ospedale? Dovrei mi fa pensare, l'unica cinese che ho visto all'ospedale è quella che ha partorito il giorno prima di me. Non parlava una parola d'italiano, quindi le infermiere le chiedevano tipo anche come stai, oppure cosa vuoi da mangiare, ecco, non ricevevano risposta. Gli portavano il menù a caso, perché questa non riusciva nemmeno a dire cosa voleva. Però era silenziosissima, il bambino appena nato pure, cioè, boh, chissà perché. Una compagna di stanza perfetta. Però, ecco, perché è nato un cinese, attenzione. Però tutto ciò che invece ruota attorno alla morte, le malattie dei cinesi, boh, mistero, perché io non ho mai visto un cinese all'ospedale, adesso che mi ci fai pensare. I pronti soccorsi pullulano, per esempio, di nordafricani, di africani, quando mi sono andata al pronto soccorso più del 50% erano extracomunitari, ma mai cinesi, forse non lavorano, non hanno incidenti sul lavoro. Beh, probabile, fatto sta, se sono vere le leggende, per carità, le autorità sanno quello che fanno, però effettivamente con quanti sono e con quanto lavorano, l'incidenza di almeno un infortunio anche lieve sul lavoro, come fa a non esserci tanto da non vederli praticamente mai nelle corsie di ospedale? Non parliamo delle cappelle mortuarie. Questi sono misteri che solo l'arcano conosce e è in grado di svelare. A Firenze, insomma, di figure arcane ce n'è più di una. Laura, grazie di averci portato per un po' almeno nel mondo della buona, mala, media sanità fiorentina e toscana. Ringraziamo Dio, raccontano di altre regioni scene dal raccapriccio. Quello è vero, dobbiamo ritenerci fortunati perché siamo un'eccellenza, pur con tutti i nostri difetti, per carità, liste d'attesa lunghe eccetera, però alla fine un modo lo troviamo, dai, per essere curati. Poi magari ci fanno la cresta anche da noi. Allora, cari ascoltatori di Radio Big World, se vi è venuta l'idea di farvi ricoverare a Firenze, adesso avete perlomeno un vademecum per cominciare e non farvi fregare. Siete a Firenze, tenteranno di portarvi via i soldi, pertanto occhio, no? C'è da pagare il ticket, no? Occhio a quello che fate. Vi ringraziamo naturalmente Laura, prima di tutto Laura. Ma grazie a te Giorgio, a presto, alla prossima fiorentinata. Olè!